La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 12 di novembre e vado subito all'argomento del giorno. Ve l'avevo preannunciato anche ieri, sapete che in questa settimana Radio 24 a rotazione con tutte le trasmissioni del palinsesto, abbiamo cominciato da domenica scorsa, ha lanciato un'iniziativa. L'iniziativa era quella di occuparci dei problemi soprattutto regionale della Liguria a un mese dalla terrificante alluvione delle vittime di Genova, se non che tutto potevamo naturalmente immaginare e sicuramente non sperare, tranne che questa settimana di appuntamenti dedicati a fare una riflessione sul post Genova in realtà poi viene travolta dalla cronaca e dagli eventi. Non è affatto un post, ma è un perdurante, perché quello che è accaduto in questi giorni, prima a Carrara, poi di nuovo in Liguria, a Chiavari, altri morti, altre vittime, altre frane, altre esondazioni, altri tragici problemi che si ripropongono purtroppo ogni autunno, vista la terribile mancanza di tenuta idrogeologica di ampie parti del nostro territorio. Si ha sempre di più l'impressione che la natura non è che si ribelli all'uomo e alle sue attività economiche, ai suoi insediamenti, si ribella alla cattiva politica e alla cattiva amministrazione italiana, perché di volta in volta scopriamo, è accaduto a Genova un mese fa, riaccade a Carrara, che poi tra rinvii delle opere per cui ci sono sia pur magri ma stanziamenti non utilizzati, a Genova era così, oppure risorse utilizzate in maniera a quanto pare non solo molto discutibile, ma bisogna vedere se ci sono risvolti penali come sugli argini di Carrara, e poi ancora la polemica di queste ore, di ieri e di oggi, a fronte dei nuovi drammi a Chiavari in Liguria, con il presidente della regione Burlando che dice dateci immediatamente 150-200 milioni, aiuti subito perché sennò veniamo travolti. E la risposta, che a me ha sorpreso innanzitutto come tono, a dire la verità, del governo e innanzitutto del capo della protezione civile Gabriele, che ha detto essere tutto cinema, è tutto teatro, Burlando faccia quello che deve istruendo le procedure per chiedergli invece di rimbalzare subito la palla altrove. Ecco, tutte queste vicende poi hanno a che vedere con la politica e la pubblica amministrazione, più che con l'imprevedibilità di questi eventi. Allora, oggi abbiamo deciso di parlarne, quindi se siete ovviamente in ascolto di là, fate tutte le telefonate che volete, dicendo cosa pensate di quello che abbiamo capito, che è avvenuto un mese fa, della risposta dello Stato che per l'ennesima volta si era dimenticato, come tutte le altre volte in Emilia eccetera eccetera, di sospendere per un periodo congruo quantomeno, no, i versamenti dovuti allo Stato per le tasse, o meglio lo ha fatto dando una scadenza solo per dicembre, quindi di poche settimane, ma dimenticandosi poi di fare altrettanto per gli acconti e le sanzioni. E quindi solo l'altro ieri poi il capo dell'Agenzia delle Entrate, chissà perché il capo dell'Agenzia delle Entrate, che è un funzionario invece di un ministro, un componente del governo, ha rassicurato i contribuenti. Vabbè, però sono sempre gli stessi errori, come vedete, che le amministrazioni pubbliche fanno di fronte a queste cose. Quindi telefonateci per dire cosa ne pensate. Ma intanto nella puntata di oggi noi abbiamo deciso di sentire l'opinione non solo di un genovese, non solo di un genovese che ha anche fatto politica negli anni, ma lo chiamiamo oggi soprattutto in quanto anche docente all'università, un professore ordinario di economia pubblica, e si occupa soprattutto poi di urbanistica e di trasporti, quindi stiamo parlando di uno specializzato esattamente nei problemi e nei nodi che vengono al pettine, insediamenti urbani fatti in un certo modo decenni fa, su cui poi non si è reintervenuti, opere per la tenuta idrogeologica sulle quali molto si discute, non solo per la penuria delle risorse e così via. Certo, conta anche il fatto che il nostro interlocutore alle ultime comunali era in ballottaggio rispetto poi a chi divenne sindaco Doria, e quindi è con noi e lo ringrazio il professor Enrico Musso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a voi. Cominciamo con le sue osservazioni su quello che è avvenuto a Genova e avviene ancora oggi in Liguria. Quanto ha a che vedere con l'imprevedibilità di eventi concentrati in poche ore invece che in un paio di giorni come precipitazioni? Quanto invece è colpa della PA e della cattiva politica, secondo lei? Ma in effetti effetti ci sono un po', direi, tre concause, no? Una naturale, che è, sono questi eventi meteorologici che stanno assumendo negli anni sempre maggiore intensità e imprevedibilità sotto certi aspetti. Un altro è antropico, ma è in qualche modo già passato, ed è il fatto che per un secolo ci sono state delle violenze sul territorio di cui oggi paghiamo le conseguenze. Ma il terzo, che è quello su cui si dovrebbe poter agire, è questo fattore umano di oggi, che è da un lato il groviglio inestricabile di norme, di regole incomprensibili, contraddittorie, tecnicamente sbagliate, eccetera, e dall'altro l'inadeguatezza di larga parte della classe politica nelle decisioni che assume e più spesso che non assume. E questi, se vogliamo, sono poi due aspetti, due facce della stessa medaglia, perché quel groviglio di norme è comunque largamente il frutto di una politica che non ha saputo produrre delle norme più efficaci, oltre che più semplici. Ecco, io credo che realisticamente sui primi due elementi c'è poco da fare. Le città costruite senza la sensibilità ambientale di adesso, e il fenomeno meteorologico è un fenomeno naturale di per sé, è neutro, non è buono né cattivo. Quello che noi dobbiamo, su cui dobbiamo e possiamo agire, è il fattore umano, appunto, e quindi diciamo cambiare le norme dove è possibile, renderle più semplici, più efficaci, eccetera, e verrebbe da dire anche cambiare la classe politica, perché qui purtroppo nel caso di Genova ci sono responsabilità articolate fra comune, regione, protezione civile regionale, il governo stesso, e fra oggi e anche il passato. Allora, le faccio due osservazioni, visto che non sono presenti qui dei politici in questione, cioè del sindaco Doria e del presidente Burlando. Il sindaco Doria ebbe a dire, passata l'immediata esplosione delle polemiche, sì, se la prendono tutti con me, però dimenticano che io con le impugnative del TAR rispetto ai famosi lavori sul bisogno e cose, come sindaco non potevo fare nulla. Burlando, ieri, rispetto al quale c'è la risposta molto agra di Gabriele della Protezione Civile, dice: guardate che io coi fondi in dotazione della Protezione Civile regionale non posso fare niente perché li ho finiti. Dall'altra parte Gabriele gli dice: beh, io ho finito i 100 milioni di rifinanziamento del fondo nazionale, quindi intanto tu istruisci le procedure e poi vedremo quanto dartene. Ecco, queste due giustificazioni, tra le tante, date il primo dal sindaco e l'altra dal presidente della regione, quanto raffigurano pezzi di realtà insormontabile, quanto invece sono un'excusatio non petita, secondo lei? Ha parzialmente ragione. Io non mi sono scagliato contro il sindaco in consiglio comunale nei giorni immediatamente successivi. Ci sono, a mio avviso, alcune responsabilità specifiche, tipo quello di non aver fatto, di non aver rifatto il piano della protezione civile, che è disastroso, come si ebbe a scoprire già nel corso dell'alluvione 2011, e non aver curato la pulizia dei rivi pensando che non servissero e così via. A parte quell'aneddoto che avevo tirato fuori sui premi ai dirigenti, che quasi sì, più fa parte del colore della burocrazia piuttosto che dell'effettiva della concretezza della risposta a questo evento. Posso farle una domanda a questo, sì, caso al consigliere comunale? In quel caso si parlava di bonus per 40.000 euro a quattro, sì, dirigenti comunali per aver raggiunto gli obiettivi legati appunto alla tutela ambientale e così via. A decidere però il sindaco e la politica, il sindaco lo sa o è il capo della struttura amministrativa a cui i premi vengono dati e la politica non lo sa? Diciamo che io ho posto la domanda e la risposta non mi è stata data. Io temo la seconda. Mi verrebbe comunque da dire che probabilmente, se andiamo a vedere, i quattro dirigenti avranno probabilmente realizzato quegli indicatori sui quali si misura il loro obiettivo di risultato, eccetera, ma è di nuovo la fiera della burocrazia, cioè lì nessuno lavora per risultati sostanziali, cioè il territorio è davvero stato messo in sicurezza, ma magari per obiettivi che ne rappresentano una traduzione statistico-burocratica, tipo a quante scuole siete andati a fare il corsetto di formazione, eccetera, sì, eccetera, sì, chiaro, e magari in questo avranno anche raggiunto un obiettivo e quindi poi rivendicato un premio, però allora la colpa è di chi vigila e di chi pone un sistema di obiettivi che di fatto non serve a niente. Però l'ho interrotta con questo per ricordare ai nostri ascoltatori la vicenda dei premi, esatto, paradossale. Esatto, l'ho interrotta, aspetti un secondo, che abbiamo 60 secondi di informazione stradale e torniamo subito con il professor Enrico Musso a parlare di Genova della Liguria. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a parlare di Genova della Liguria e non solo di Genova della Liguria. Giustamente molti ascoltatori ci mandano messaggi dal nord-ovest, per così dire, e quindi io ringrazio chi ci ricorda di ricordare, per esempio, che anche il lago d'Orta con Omegna, le valli sono a mollo e in mezzo frane su frane. Un altro ascoltatore, Gianni da Biella, ci ricorda un altro morto proprio di stamana, creva al cuore, provincia di Biella, per una frana che si è abbattuta sulla sua casa. E poi tanti che hanno opinioni invece sulle responsabilità, per così dire, ne leggo solo alcuni. L'Italia affonda a Roma, e a Roma i politici e i burocrati ballano ubriachi senza toccare i privilegi, veramente senza una strategia. Abbiamo tantissimi disoccupati e però nessuno pensa a un piano straordinario anche per utilizzare per lavori di emergenza socialmente utili, a fronte di queste opere che non vengono fatte, anche chi non ha lavoro. Questa è un'idea tradizionale keynesiana, però è un'idea che in questo caso potrebbe avere un senso, perché molti di quei disoccupati poi non hanno anche le qualifiche per dire, quindi non è un'idea buttata lì tanto per. Ovviamente bisognerebbe avere un servizio di protezione civile che contemperi anche non solo i volontari che si scatenano per immediato impulso umanitario, come è avvenuto a Genova, agli Angeli del Fargo e così via, ma che abbiano delle disponibilità di privati ad aggiungersi in maniera organizzata per professionalità e competenza. Ecco, questa cosa in Italia, diciamo, è un po' deficitaria, forse non fa parte tanto delle nostre tradizioni, perché noi abbiamo un terzo settore onlus che dal basso poi si propongono per farlo. Certo, come abbiamo visto, oramai visti tagliati i fondi della protezione civile dopo le vicende Bertolaso, un'estensione di coinvolgimento di fronte a emergenze straordinarie sul territorio, di professionalità e disponibilità volontaria ma specializzata, beh, questa è una delle tante lezioni da tirar fuori da queste vicende. Allora, Musso, diciamo, però un sindaco di fronte alle impugnative sulle opere può far poco. E poi, quanto a risorse, il piano del comune andava riscritto, ma poi le risorse per intervenire ce l'aveva il comune, ce l'ha oggi la regione, secondo lei? Questo andava più sulla questione, sulle responsabilità della regione, che sono anche delle responsabilità, diciamo, potremmo dire per responsabilità oggettiva, sull'apparato della protezione civile regionale, in particolare su questo ente, questo ARPAL, che sembra un po' un carrozzone con un dirigente ogni 7 dipendenti, col 21-22% di assenteismo, e che, non dimentichiamolo, il giorno della tragedia alle 18 ha mandato tutti a casa dicendo tranquilli, non c'è nessun pericolo e non c'è nessuna allerta. Poi nel mese successivo ci ha propinato una decina di allerte massime, con diversi giorni di chiusura delle scuole e di chiusura di tutte le attività economiche o quasi a Genova, perché a quel punto non volevano più sentirsi dire, no, un'altra volta, che non avevano previsto. Quindi questa incapacità di fare le previsioni che altri enti come l'ISAC del CNR di Bologna avevano previsto perfettamente, quindi per carità, è sempre difficile fare le previsioni, soprattutto sul futuro, diceva quello, però forse ci si poteva aspettare qualcosa di più. Ma poi c'è la questione dei fondi e della capacità di utilizzarli. Qui il Presidente Burlando ha rimbalzato le responsabilità soprattutto su quel ricorso al TAR, però bisogna ricordare che il TAR espressamente non aveva concesso, cosa piuttosto insolita, la sospensiva dei lavori, proprio motivandolo col fatto che erano lavori urgenti, il cui interesse pubblico trascendeva il merito. Per una volta il TAR. Sì, per una volta, a parte un breve periodo in cui la sentenza di primo grado del TAR dette ragione ai ricorrenti, poi smentiti in Consiglio di Stato, in realtà il Presidente Burlando poteva cominciare i lavori e poteva comunque proseguirli se li avesse cominciati, e comunque ricominciarli quando questa breve parentesi cui accennavo si chiuse. In realtà, appunto, questo denota che è un pochino un falso problema quello, e lo è anche un po' quello delle risorse, perché in questo caso le risorse c'erano e sono rimaste nel cassetto fino a tutta questa alluvione compresa. Diciamo. Poi uno va a vedere che, per esempio, il piano per il risanamento ambientale, 137 milioni già stanziati, 22 utilizzati in tutta Italia, 0 in Liguria, 5 miliardi di fondi europei sul periodo 2007-2013 messi dall'Italia, utilizzati 1 miliardo, cioè il 20% di quello che non abbiamo. Cioè, queste sono robe che ti fanno pensare che non c'è la progettualità, cioè non c'è proprio la capacità di dire. Io questo speravo che dicesse. Esattamente così, anche perché ricordiamo agli amici in ascolto, contribuenti, di tasse ambientali finalizzate in maniera dichiarata dallo Stato all'utilizzo a questo fine ambientale, nel senso della tenuta idrogeologica e così via, noi ne paghiamo 3,4 miliardi. Se ci estendiamo a tutte le imposte che hanno finalità verdi ambientali, quindi non solo per la tenuta idrogeologica ma per tutto l'ambiente faunistico e così via, cioè ci mettiamo dentro la parte verde della bolletta elettrica, la parte verde che grava fiscalmente sui carburanti, sugli oli da recuperare e così via, noi ne paghiamo oltre 40 miliardi di euro l'anno. Ecco, tenete conto che questo è quello che lo Stato dichiara di prendere a questi fini. Quello che ha appena ricordato il professor Musso è quello che non spende persino rispetto alle somme italiane e europee che stanzia, e quindi c'è un enorme problema da questo punto di vista. Piero da Alessandria, come la pensa Piero? Guardi, ci sono delle leggi attualmente che favoriscono l'esondazione di dei torrenti, dei fiumi a carattere torrentizio. Per esempio? La punibilità se lei va a raccogliere i tronchi nei fiumi, i tronchi abbandonati rimangono lì mentre ostruiscono ovviamente gli alvei, quindi lei dice ostruiscono i ponti, vanno fermarsi contro i ponti. L'impossibilità di raccogliere la ghiaia che i torrenti smuovono. Certamente. Io sono stato in Svizzera quest'estate, dal passo del Bernin andare a St. Moritz non è un posto di no, degrado. No, giustissima osservazione di Piero. Daniele da Milano, prego Daniele. Allora, io abito in via Lungo Seveso, potete immaginare da a Milano quando, a Paderno Dugnano. Paderno Dugnano. Ho avuto un metro d'acqua in casa a luglio, sì. Ho perso macchina, completamente il piano terra. Ho un tavolo di plastica invece di un tavolo decente. Adesso il fiume mi hanno chiamato che mancheranno 10-15 centimetri e riesonda. Allora l'AIPO, l'agenzia non so che provinciale, è stata avvisata da me a marzo, ho mandato una mail, tranquillamente non mi hanno risposto, mi ho avvisati che se non avessero pulito il fiume, se non si fossero sbrigati ad abbassare il livello dell'alveo, risuccedeva. E non l'hanno risposto. Non hanno risposto, è successo. Io ho fatto un esposto ai carabinieri. Qualcuno le ha risposto lì? No. Dai carabinieri, no, poi no. Niente, ha fatto un esposto e basta. Basta, è stato mandato tutto a Milano. Daniele, io mi auguro solo per tutti voi che state lungo il Seveso che non riavvenga. Anche oggi sta piovendo in maniera torrenziale qua a Milano. E tornerò, io continuerò con Enrico Musso perché tantissime domande non gliele ho fatte.